Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi da Nicoletta e benvenuti. Oggi una missione: ritrovare il colore. Questo potrebbe essere il motto del lunedì e oggi vi aiuteremo a trovare non semplicemente il colore del vostro lunedì, ma una vera e propria teoria dei colori. Ho richiamato qui in studio Alberto Pellai, che non è venuto molto colorato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, i colori hanno un'importanza particolare nella nostra vita, molto più di quanto noi possiamo immaginare. Sì, è vero, pensa quando siamo bambini, fondamentalmente ci mettiamo addosso e mettiamo nella nostra vita tutti i colori del mondo e poi man mano che cresciamo facciamo un lavoro di selezione progressiva. C'è qualcuno che alla fine diventa un adulto in grigio, qualcuno un adulto in rosso, qualcuno un adulto in verde. Tu sei molto colorata stamattina. Mi sono preparata perché per capire meglio la teoria dei colori oggi in studio con noi c'è il teorico dei colori più amato del momento. Il suo album è in testa a tutte le classifiche di vendita e le sue canzoni sono da settimane le più scaricate dal web. Saluto Cesare Cremonini. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, non pensavo che avrei creato un casino così grande con questo titolo, hai visto? Mi sono messo nei guai da solo. È vero, è un po', però ci fa piacere. Buongiorno. Parlare di colore con te, del tuo CD e della teoria dei colori. Una teoria molto personale, quella con cui hai intitolato il tuo nuovo album, ma non solo, lo hai anche illustrato, perché il CD ha la copertina più cromatica e il libretto più ricco di colore che a me sia mai capitato di vedere. È bellissima. Grazie. Da dove ti è nata l'idea di concentrare le tue note, le tue emozioni in canzoni che sembrano proprio un vero arcobaleno musicale, come lo definiva Alberto, perché contengono tutte le gradazioni cromatiche dell'amore, dalla gioia, dalla scoperta, al dolore, dall'abbandono, insomma mi verrebbe da dire dal rosso al nero, perché ci sono tutti. Certo, ci vuole fantasia anche nel soffrire, oppure fantasia anche nell'amare, e la cosa che mi ricorda di più la fantasia in assoluto sono proprio i colori, perché la loro varietà è quasi infinita, credo, almeno credo che sia più o meno infinita, come poi le emozioni che possiamo provare, come poi le possibilità di emozioni musicali che si possono accostare alle emozioni, quindi questa policromia è il simbolo, secondo me, di un album che doveva contenere quasi ogni spettro di quello che ho provato in questi ultimi anni. Alberto, la teoria dei colori è anche un po' la teoria del mondo delle nostre emozioni, come anticipava Cesare, perché tutti noi, vivendo e crescendo, ci cucciamo addosso una vita che ha il suo colore caratteristico e che in parte diviene anche lo specchio della nostra identità personale. Ma sì, io credo che effettivamente guardandoci in giro, provate adesso a girare lo sguardo e guardare le persone che avete al vostro fianco, è molto probabile che il colore che stanno indossando, il colore che vestono, sia un po' lo specchio anche delle persone che sono e che sono diventate. Ed è incredibile, perché quando tu sei io penso alla Caterina, la mia bambina di 4 anni, l'abbiamo portata a una festa, doveva vestirsi elegante, voleva vestirsi lei, si è messa addosso tutti i colori del mondo, sembrava la copertina del CD di Cesare Cremonini. Beh, più o meno il contrario di quello che faceva la mia mamma, perché io quando ero piccola mia mamma diceva, mi vestiva di un colore solo, dalle scarpe fino al colletto, quindi io uscivo, andavo a scuola color canarino, con camicia gialla, pantalone giallo, cintura gialla, calzino giallo e scarpa gialla. È ancora oggi per questo. Perché è tutto abbinato, come si dice. Non lo so, forse fa qualche problema con la lavatrice, non lo so. 800 24 00 24 per parlare dei colori con soprattutto Cesare Cremonini e con Alberto Pellai. A voi chiedo di cominciare a chiamare il nostro numero, che peraltro è verde. È verde, tra l'altro. Non solo potrete parlare con Cesare, che ha fan in ogni angolo della nazione, di tutte le età, di tutte le età, perché dai 0 ai 99 anni sono. È vero, ma voi potete provare, l'avete già fatto anche su Facebook, a raccontarci qual è il colore in cui vi riconoscete, qual è il colore che vi rappresenta di più. Potete anche dirci quanti colori vedete intorno a voi, se siete circondate da persone grigie o colorate. Io un po' di colori vicino, devo dire che sono la più colorata dello studio, perché sia Cesare che Alberto sono venuti con toni. Ci salvi un po'... la puntata, vero? Tu. La credibilità. Vedi? E soprattutto volevo sapere se avete un colore terapeutico, un colore che amate indossare, che amate osservare o che quando magari incontrate così all'improvviso vi dà pace oppure vi ricarica. I miei colori preferiti, ad esempio, sono il verde in tutte le sue tonalità e l'azzurro. Però poi dicendolo zucchero già mi viene in mente anche l'arancione, insomma ne abbiamo più di uno, diteci, raccontateci i vostri, li confrontiamo con quelli di Cesare e Alberto farà un profilo. Cesare, tu hai un colore preferito? E immagino. No, ho un colore preferito per ogni occasione, nel senso che magari il colore che mi dà più serenità e più gioia e più felicità è il giallo con l'arancione, i colori insomma più luminosi. Poi magari mi piace anche vestirmi di nero, perché mi piace magari l'eleganza del nero, no? Quindi ogni colore poi alla fine non è che per forza il nero è triste, ecco, non è che per forza se vesti di nero sei una persona cupa. La verità è che ci sono delle qualità dentro ai colori. Com'è giusto dire che magari nella personalità una persona riflessiva e magari a volte profonda non vuol dire che per forza non si allegra, ecco. La teoria dei colori, Alberto, nell'album di Cesare si incarna letteralmente in storie e persone che la traducono in realtà, e c'è un personaggio in particolare che ha fatto conoscere per primo il nuovo mondo musicale di Cesare, un vero e proprio comico. Vestita da bambina, prigioniera, vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male, non so dirti una parola, non ho niente di speciale. Se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio di te. Il comico, Alberto, cosa rappresenta secondo te questo comico cantato da Cesare? Ma secondo me dacci la tua versione colorata. Un bellissimo personaggio, molto molto generoso, è quello che in un mondo dove magari tutti cercano spiegazioni, cercano astrazioni, lui in realtà quello che si mette in testa è quello di far ridere, cioè di portare il sorriso, e conseguentemente offre una dimensione che è molto bambina, molto ludica, ma anche molto necessaria in uno spazio in cui tutti invece stanno dentro a troppa complessità. Grazie. Cesare, Alberto ci ha visto giusto, e per te il comico di questo album è un personaggio in continuità, in rottura con il pagliaccio che avevi cantato nel tuo precedente album? Beh, è molto diverso. Il pagliaccio, che è una canzone che avevo scritto a 16 anni e poi dopo avevo tenuto nel cassetto fino a un paio d'anni fa per inserirla dentro Il primo bacio sulla luna, è un personaggio molto legato alla confusione della vita d'artista, salire sul palco, vivere nella realtà, no? Questo mondo tra palco e realtà che poi lega quasi la vita di tutti gli artisti. Mentre il comico mi ha colpito quello che ha detto il professore, perché ha parlato di generosità, ed è vero, far ridere gli altri è un atto di generosità, però credo che ci sia di fondo anche un enorme bisogno di amore nel cercare la risata, il sorriso, la felicità negli altri. E in questo momento c'è bisogno di chi ci tocchi il cuore con la forza del sorriso. Molte fatiche nella vita degli italiani, non ultima quella del terremoto che ha toccato proprio la tua terra, sì. Cesare, tu come hai vissuto questo evento, essendo tu anche così fortemente radicato e ancorato alle tue radici? Ah, innanzitutto devo dire che la parola radice è proprio quello che in qualche modo torna alla mente in questi giorni, perché noi siamo un popolo, noi emiliani, molto legato alla nostra terra, una terra che non ci ha mai tradito. Almeno a ricordo d'uomo non ci ha mai tradito, siamo un popolo di origine contadina che ama il proprio lavoro e ama profondamente la propria terra, quindi ci ha destabilizzato molto psicologicamente questo. Però io il lato B di questa faccenda molto triste e dolorosa, che è inquietante perché non capiamo più se potrà finire a breve termine o no, è che comunque va ricostruito anche il sorriso ogni giorno, prima di iniziare a costruire le case, prima di iniziare a collaborare, va comunque ricordato, dato che il terremoto non è un male, come dire, con un pregiudizio nei confronti dell'umanità dietro, è purtroppo o per fortuna una cosa naturale che va accettata e bisogna conviverci quando c'è. E quindi il sorriso è una delle cose che va ricostruita in qualche modo. Il sorriso e la speranza. C'è una canzone, Alberto, nell'album di Cesare che sembra proprio tradurre in parole e musica la possibilità di trovare ancora la speranza anche in mezzo a questa tempesta. E allora io penserei che il modo migliore per così far passare questo messaggio è ascoltare un breve estratto del tuo album, del brano dal tuo album intitolato Il Sole. Ci finiremo contro, preparati perché sarà una sfida, la nostra barca sarà in balia del vento, ma prima o poi il mare sarà calmo, smetterà di far rumore, le nostre vele si gonfieranno e sentiremo ancora sulla pelle questo sole. Colori vi portano nel lunedì odierno nei note le parole di Cesare Cremonini, quali colori vi malenano nella mente alla luce anche delle riflessioni che stiamo facendo insieme a Cesare e ad Alberto. 800 24 00 24, chiamateci, intervenite in diretta, molti di voi mi stanno scrivendo al 349 238 6666. Molti messaggi mi arrivano che gli abbiamo aiutato a cambiare colore dal grigio e stanno... Devo dirti una cosa che mi ha colpito molto. Quando è uscito il mio disco, è uscito una settimana e mezzo fa circa, sì. Ovviamente ho pensato di essere fuori luogo a portare una copertina così colorata, a portare così tanta gioia ed entusiasmo anche dopo 2 anni di lavoro, in un momento in cui proprio vicinissimo a casa mia, ed è un luogo in cui che amo molto, ma in cui sono anche molto amato, no? La mia terra, sì. Mi sono sentito in imbarazzo, ecco. Mi sono sentito un attimo a disagio a dover portare in quell'istante preciso qualcosa di questo genere. Ho avuto la sensazione di dovermi trattenere e ho ricevuto, senza averlo chiesto, una enorme, ma questo lo rivolgo anche a voi come radio, no? Come persone che parlano alla gente, chi in questo periodo storico e momento preciso parla attraverso la musica, attraverso la voce di una radio in cui fa intrattenimento anche in maniera leggera alle volte o allegra, in realtà è di enorme aiuto. Ho ricevuto un'enorme, gigantesca quantità di messaggi di ringraziamento, di cui non merito nulla, però per aver portato nello stesso istante in cui c'era un così grande problema qualcosa che potesse spensierare la mente delle persone, perché arrivano questi... Posso dirti, Cesare, che secondo me questo è proprio anche il significato più profondo della canzone Il Sole, cioè io l'ho trovato un testo perfetto dove c'è un capitano che in realtà attraversa la tempesta e chi gli chiede ma ce la faremo dice bisogna entrarci dentro se vogliamo ritrovare il sole, e credo che questo sia un po' anche il senso dell'arte, cioè darti la possibilità dentro al tumulto di emozioni spesso complesse, spesso imprevedibili o ingestibili, di trovare poi il tuo flusso, la tua direzione e arrivare a quello che è il tuo traguardo. Vogliamo dare la linea ad Angelo che ci chiama da Roma e poi a Mara da Vicenza. Angelo, benvenuto, grazie. Buongiorno. Buongiorno a lei. Visto che parlate di musica, forse il ragionamento che sto facendo calza ancora di più. I colori sono luce, giusto? Una parte, sì, della luce. Certo. La luce emette delle vibrazioni, quando ogni singolo colore emette una singola vibrazione, come ogni nota, quindi una diversa sezione per esempio di una corda emette una vibrazione differente. Ognuna di queste vibrazioni interagisce con una parte dell'essere umano, sia sotto il livello fisico e quindi mentale che sotto l'aspetto etereo, in questo senso. Il nero, che è un non colore, è un qualcosa che assorbe. Infatti in alcune tradizioni il nero viene utilizzato per assorbire dolore, per assorbire negatività, quindi il nero è una sorta, diciamo, di contenitore all'interno del quale vanno le cose negative. Angelo, vogliamo provare ad associare i colori alle emozioni. Qual è il colore che la rappresenta in questo momento? In questo momento in cui parla con noi al telefono? Il blu. Il blu. Perché? Me l'ha chiesto, mi è venuto distinto dire il blu. Alberto, ma sì, io credo che poi il colore proprio è una scelta irrazionale, cioè tu ti ci trovi dentro e un po' come la vita accade in quel momento tu senti che è perfettamente in sintonia con quello che stai vivendo, con quello che sta accadendo. 800 24 00 24 è il numero che ha fatto Mara, che ci chiama da Vicenza. Mara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Niente, volevo segnalare i miei colori che prediligo, insomma, nel vestire. Io cado sempre nel bianco, la maglia bianca. Sì. Mentre nel colore che mi rilassa, che guardo, è il verde, che mi dà proprio serenità. In tutte le sue sfumature, vero, sì. Mara? Sì. Salutiamo Mara, Cesare Cremonini rimane con noi fino a chiusura di trasmissione, non lo lasciamo uscire da prigioniero. Qui, prigioniero, lo teniamo prigioniero. Essere e benessere. Una come te non si avvicina per ballare, guarda da lontano, una come te se corre in ciampa ma non cade. Tiene la tua mano, una come te per una rosa può morire, solo perché ancora non sa togliere le spine. Una come te mi piace da morire. E anche a noi piace Cesare, a cui ho chiesto nel tempo dei mercati del meteo di scegliere proprio una canzone da inserire, da ascoltare insieme adesso in questa puntata in cui vogliamo ritrovare il colore e utilizzare il colore per il nostro benessere. Noi lo facciamo già, siamo già capaci. L'importante è prenderne consapevolezza. Cesare, perché una come te? Beh, che questo, mi piace siccome, molto. Siccome perché... prima mi sono permesso di prendere un po' in giro la mamma per come mi vestiva da canarino da piccolo, allora cercavo di insomma rifarmi dedicandole una come te. Anche perché veramente di come la mamma, senza voler essere retorici, veramente ce n'è una sola. Tanto sul serio. E qualcuno dice meno male. Sì. Perché io leggo, no, tra le mie, negli sguardi delle mie figlie ogni tanto questo pensiero. Alberto, i colori, noi cerchiamo di ritrovare colore, di mettere un po' di colore nella nostra vita, nella nostra quotidianità, a lunedì, quando è sempre la giornata più grigia della settimana, ma anche la psicologia utilizza da sempre i colori. Sì, in realtà se tu guardi per esempio alcuni test proiettivi che vengono usati, sono tutte tavole colorate dove uno deve provare a cercare, a trovare quello che corrisponde al suo personale modo di vedere e di sentire la vita. E la cosa migliore che possiamo fare con un bambino quando arriva nello studio di uno psicoterapeuta è mettergli davanti un foglio bianco e una scatola di pastelli, il più possibile. Come diceva Cesare, i colori sono infiniti, ecco, e verificare che cosa quel bambino riesce a tirar fuori da sé attraverso l'uso dei colori. E noi come possiamo utilizzare i colori? Noi che non siamo più bambini, ma che comunque abbiamo bisogno di trovare l'energia appunto dai colori. Se la vita è in grigio, se la vita è in bianco e nero, e quello è un momento da cui noi vogliamo in realtà uscire, quello che ci mettiamo addosso corrisponde esattamente un po' all'espressione che vogliamo riavere sul viso e sul volto. Per cui questo fa parte proprio un po' del modo in cui affrontiamo la vita. La vita possiamo subirla e quindi rimaniamo dentro al colore che quella situazione ci mette dentro, ma la vita possiamo anche affrontarla e in qualche modo fare quel lavoro che il capitano della canzone del sole fa con la persona che è sulla sua nave. Gli può proprio dire: entra nella tempesta e va alla ricerca del sole, insieme ce la possiamo fare. E oltre ai colori ci sono proprio delle parole che sono colorate, Cesare. È vero. Che ci sono uno anche ad occhi chiusi può vedere i colori attraverso delle parole, nella descrizione delle immagini. Certo. Io ascoltando una come te mi immaginavo una donna, sì. E me la immaginavo proprio colorata. Proprio perché anche nei gesti, nella descrizione di alcuni gesti, si ritrova il colore, quindi un'energia. Sì, le parole, la musica in genere, secondo me, sono al di là di tutto, al di là del significato, energia. Tant'è vero che adesso il professore mi ha fatto venire in mente una cosa. Secondo me i colori, prima ancora di cercarli attraverso i vestiti o attraverso l'escamotage di quello che possiamo metterci addosso, che è un classico come pensiero, vanno anche cercati, nel senso che al di là di certe mattine grigie di Milano, che posso capirvi voi che vivete qui, però al di là di questo credo che ci siano molti colori che non vediamo solo perché non ci prestiamo l'attenzione necessaria, forse perché siamo un po' schermati, no? Aprire gli occhi ai colori è un modo in cui non serve per forza andare in giro come degli arlecchini per darsi un tono, ma credo che alzare lo sguardo basti alle volte, ecco, questo sì. È quello che volevo dire. E poi anche i colori che arrivano anche attraverso l'ascolto, perché ascoltando le persone entriamo in sintonia con il loro modo di percepire la vita, di vivere la vita, e ci restituiscono emozioni che sono comunque colori. Sì, e direi che proprio quello che dicevi tu delle canzoni di Cesare, secondo me, è davvero potente. La scrittura di Cesare, secondo me, è una scrittura davvero fotografica. Cioè lui ti passa un'immagine, una microfotografia, ce ne sono centinaia dentro i suoi testi, e tu vedi quell'immagine e immediatamente ricolleghi all'emozione che ne deriva. Lui è un vero artista. È un vero artista, e gli artisti vivono spesso attraverso i colori delle loro opere. Lancio questo là al nostro prossimo ospite, il professor Stefano Zuffi. Ciao! Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e a tutta la redazione. Storico dell'arte, Stefano, gli artisti, dicevo, vivono attraverso i colori delle loro opere, si identificano talmente tanto con i colori da essere raccontati addirittura attraverso fasi cromatiche nella loro produzione. Penso ad esempio a Picasso, no? Che ebbe il periodo blu, un periodo rosa, prima del periodo africano. Certo, sì. Peraltro la questione dei colori è una questione delicatissima. Io penso sempre che avessero ragione i nostri antenati romani, che erano persone molto pratiche, molto concrete, molto poco abituate ai voli pindarici, che dicevano de gustibus et coloribus disputandum, perché il senso del colore è un senso molto individuale, molto particolare, molto legato a delle reazioni che appartengono a ciascuno di noi. Per esempio il blu di Picasso è un periodo certamente caratterizzato dalla prevalenza di toni azzurri che investono praticamente tutto ciò che si vede nei dipinti di questi brevissimi anni, perché poi sono dei periodi veramente molto fuggevoli, sia sì, il blu che il rosa. Però d'altra parte il blu in lingue, per esempio in inglese, to feel blue vuol dire essere malinconico, essere triste, e non è necessariamente per noi il blu o l'azzurro, anche qui blu o azzurro è un colore triste, tenendo conto che l'azzurro è il colore più diffuso in assoluto sulla terra, il mare, il cielo, la parte di ciò che noi vediamo è azzurro. E quindi, insomma, parlare dei colori è ovviamente estremamente interessante, ma di una straordinaria difficoltà. Credo che sia uno degli argomenti più delicati, ma naturalmente proprio per questo più affascinanti dell'intera storia dell'arte. Allora Stefano, ti invito a fare un tuffo nei colori con la teoria dei colori di Cesare Cremonini, che secondo me è anche terapeutico. Volentieri, ne sono certo. Un abbraccio Stefano Zuffi, grazie per essere stato con noi, buonissima grazie giornata. Una giornata colorata. Anche a te, Cesare, se tu fossi come Picasso, posso dire, cioè, e tu sei come lui un artista. Quindi no? Stiamo parlando già in un'utopia, vai. Ecco. Che colori sceglieresti per le differenti fasi della tua vita? Insomma, tu che periodi colorati hai avuto nella tua esistenza? Giallo canarino ti vestiva tua mamma. Beh, diciamo che se c'è una cosa, sintetizzando la mia risposta, quando ero più piccolo, quando ero più giovane, quando ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni, intorno ai 15-16 anni, cercavo le tinte più forti, perché è un periodo quello in cui ho tutto e niente, in cui ogni esperienza che ti capita, ogni sentimento lo vivi come se fosse l'ultimo, no? Crescendo invece i colori pastello, quindi quelle sfumature le ho trovate più preziose, quindi anche più mie, più uniche, meno facili forse, ma altrettanto utili, ecco. Oppure acquerello, Alberto. In realtà quello che dice Stefano è proprio, sembra un manuale di psicologia raccontato attraverso i colori, cioè c'è una fase della nostra vita che è quella proprio dell'età evolutiva in cui noi possiamo davvero entrare nel laboratorio dei colori e fare della nostra vita le esperienze più estreme. Gli psicologi parlano di montagne russe in adolescenza, dove tu vai dal rosso al nero, dal bianco al giallo con la velocità, proprio con la velocità della luce, e se tu puoi fare questo poi puoi stabilizzare la tua identità e diventare in qualche modo un adulto che riesce a quel punto non più a scegliere gli estremi, ma a scegliere la zona intermedia della tua esistenza, quella un po' della stabilità, della regolarità, che però è impregnata ancora di tutti i ricordi così passionali, così intensi. Se non hai vissuto invece quella teoria dei colori, quella degli estremi, quella dove c'era però la passione. Si può alternare, cioè, la teoria dei colori come con i colori molto vivaci che contrastano, puoi irrompere anche in età matura. Ah, quello assolutamente. Ma non di è solito un tornare indietro, no, o un recupero, no, può essere un bisogno di vivere la vita in un certo modo. Beh, le nuove generazioni hanno avuto la fortuna rispetto a quelle poco prima di loro di avere avuto tanta possibilità di montagne russe facili in età giovanile, quindi forse diventeremo più calmi noi di voi da grandi. Allora io direi che possiamo concentrarci prima di andare a sentire le informazioni sul traffico, perché ho bisogno che voi vi concentriate e poi troviate il vostro colore su una dimensione molto speciale della vita di tutti noi. Quando ci si innamora, oh, scelta questa volta da Alberto. Una l'hai scelta tu, Cesare, e una l'ho dovuta far scegliere ad Alberto, che la ama in modo particolare. La mia preferita, l'ho ascoltata, la è sa, arrivata come un lampo e l'ho messa poi in riascolto decine di volte, ha dentro secondo me tutti i colori dell'amore, è un vero e proprio testo di educazione sentimentale per i nostri figli, ma anche per noi genitori, ha dentro tutto. Com'è che io mi sento così perso invece, se sono così bravo? Vabbè. Secondo me proprio questo sentirti perso è raccontato benissimo dentro questa canzone, Grovigli e sentieri. Grovigli e sentieri. Allora, dato che abbiamo a disposizione un CD di Cesare, che io ho rubato e che voglio che lui dedichi al primo di voi che chiama il nostro numero verde 800 024 0024, ma come sempre a Essere Benessere abbiniamo un libro della libreria di Essere Benessere, un CD che mi sono fatta regalare da Cesare, ad un percorso, no, che ci porta un po' al benessere o a capire delle cose. Alberto, questo stimolo che vogliamo dare oggi, sono le 11:46, rapidamente prima di andare a sentire le strade e il traffico, vogliamo chiedere agli ascoltatori di... Ma io li farei tornare sul loro primo amore. Chiudete gli occhi. Che colore ha portato nella vostra vita e perché? Essere e benessere. Cesare, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di chiamarci all'800 24 0024 per ritornare al primo amore, ma anche all'amore che stanno vivendo adesso, perché magari è il primo della maturità, il più intenso, il più, e di abbinarlo ad un colore. Raccontaci il tuo amore a colori. Oh beh, ci vorrebbe non bastano i colori, ci vorrebbe un mucchio di verde, speranza, perché sto per perderla, però diciamo che rimane il rosso, banalmente anche, ma orgogliosamente, il colore che preferisco in amore. Il rosso, che è il rosso della passione, sangue, dolore, voglia di come dire, anche di esperienze forti, non compromessi, diciamo, ecco. Alberto, a questa risposta, tu, la tua parte, lo psicoterapeuta che c'è in te, perché sei, su che cosa si è attivato? Perché molti mi hanno scritto rosso e sembra quasi, scusami Cesare, banale, no? Amore ma rosso. Ma orgogliosamente banale. Ecco, però lui dice orgogliosamente, poi lo dice lui, allora sembra. Però perché, che cosa c'è? Ma direi che questa? Il rosso, proprio perché richiama l'immagine della fiamma e del fuoco, il rosso accende, quindi è un fantastico iniziatore delle nostre storie d'amore. Infatti inizio benissimo. Finisco malissimo, è quello, però... credo che quello è poi proprio il problema con l'amore, che colori metti poi che tra il rosso, l'evoluzione del rosso nella tua storia d'amore, che cosa diventa, perché uno dei lavori impossibili delle persone in amore è tenere per sempre il rosso, ma quello non è possibile, puoi continuare ad alimentare quel fuoco, qual è il colore più razionale secondo lei, professore? Professor Pellai. Non esiste, cioè io credo che poi l'evoluzione sia che all'inizio il rosso è proprio monocromatico ed è quella roba lì perché è chimica, l'ha raccontato anche Nicoletta tante volte in trasmissione, cioè tu sei invaso dalla passione perché è una reazione del tuo cervello. L'evoluzione è invece che devi andare a scoprire tutti gli altri colori. Credo che l'amore non sia monocromatico, ma sia fatto della tenerezza del rosa, dell'alzare lo sguardo del blu, della vivacità del giallo, e tutti insieme si mescolano poi nella tua dando un aiutone personalissima storia ad Alberto di vita. Dobbiamo già dare, perché quello che abbiamo chiesto agli ascoltatori è quindi di descrivere un po' i colori del loro amore e di che cosa è fatto l'amore, quanti colori può avere, se c'è una ricetta, l'ha già descritta già Alberto, il professor Pellai. Insomma, ci saranno tanti uomini che diranno il bianco, insomma andrà avanti così, secondo me ci saranno veramente una varietà multicolore. 800 24 0024, nell'attesa del vostro mix colorato, voglio salutare la dottoressa Farnetti. Buongiorno. Buongiorno. Internista e nutrizionista, che abbiamo chiamato perché forse anche per avere una storia d'amore colorata bisogna saper mettere i colori giusti sul piatto. Probabilmente sì, chissà. sappiamo soltanto che il segreto per stare bene è proprio quello di mixare i cibi in modo da mettere nel piatto almeno tre colori, diciamo. Per esempio, preparare una tavolozza di arancione, verde e viola, mettendo nel piatto carote, lattughe e un pugno di ciliegie, oppure bianco, arancio e verde con il finocchio, il sedano, le olive e una pesca. Importante gli alimenti di stagione, perché la natura in questo momento, l'estate, ce li fornisce. Quindi non andiamo in vacanza dai fornelli e quindi anche dalla cucina, perché questo è proprio il momento in cui, per esempio, la pelle ha più necessità di ricevere questi nutrienti. Cesare, tu sei un buon gustaio, ami, come mangi colorato? Mangio con fantasia, perché ho un papà dietologo e, come conferma la dottoressa, lo dice anche mio padre continuamente, la fantasia dei colori sulla tavola, la varietà quindi anche di quello che si mangia, è uno dei segreti della buona alimentazione, soprattutto in Italia, dove c'è la freschezza. Certo, ce li abbiamo tutti, accende anche la creatività, evidentemente, perché vuol dire che Cesare, il suo papà, l'ha fatto, e anche la sua mamma, la mia pancetta dimostra che non segui i consigli di mio padre, ma l'hanno fatta mangiare bene, perché è creativo. Sì, cioè non so quanto sia legata la mia creatività ai colori del cibo, però sicuramente l'abitudine alla varietà e alla fantasia in quello che si fa sulla tavola può influire sulla fantasia che si porta al mondo. Dottoressa Farnetti, però con la cottura il colore cambia e noi vogliamo invece dei colori belli vivi. Come quelli che caratterizzano un po' le nostre emozioni. Assolutamente, colori vivi. Vivi perché se noi per esempio prendiamo una carota e la facciamo bollire a fettine nell'acqua, perde tutto il beta carotene. Quindi mangiamocela cruda, la julienne, condita sempre con il verde intenso dell'olio extravergine d'oliva, che invece ci aiuta ad assorbire meglio le vitamine. Il peperone è un altro cibo di stagione, rosso, giallo, che contiene 3 volte la vitamina C dell'arancia. Però se noi lo facciamo cotto al forno e ce lo teniamo a lungo, purtroppo la vitamina C finisce per non essere più utilizzabile. Assolutamente. E un po' come trattiamo i nostri cibi, trattiamo anche le nostre emozioni, Alberto. Ma sì, io direi che di nuovo... Non annacquiamola, non teniamole dentro, non sciupiamole, non soffochiamole. No, credo che tu puoi fare con le emozioni lo stesso lavoro che fai con la tavolozza dei colori. Cioè ci sono alcuni colori, alcuni momenti, alcune immagini dove tu hai bisogno di... colori molto molto precisi, molto scanditi, quello è il colore di quella cosa, e ci sono altri passaggi dove invece devi mescolare tutto. Ma se fai sempre solo una cosa, cioè separi oppure mescoli tutto, lì generi un caos e comunque un malessere. Penso che la dottoressa Farnetti, anche come nutrizionista, sia d'accordo. Assolutamente sì. Vero? Beh, l'associazione fa la differenza. Associarli insieme in modo furbo gli alimenti e quindi il colore degli alimenti è essenziale per il benessere dell'organismo, per recuperare la forma fisica e il buon umore. Hai detto tu, Nicoletta. Grazie, dottoressa Farnetti. A voi, buongiorno. Buona giornata. Abbiamo Claudia da Rimini. Sì, buongiorno. E poi Emanuela da Roma. Buongiorno, Claudia. Sì, buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza. Io ho 3 figli, di cui 2 femmine, e quando ho scelto il nome ho scelto per una Viola e per una Rubina, e volendo dare a loro così un'entrata nella vita con un suggerimento con un colore. Non so, mi è venuto distinto questa cosa, e vorrei chiedere appunto al professore, che ormai è diventato professore Viola e Rubina. Tu non ci hai pensato, lui ha 4 figli, neanche un nome colorato ha dato. No, ma magari però arriva col quinto. Rimane che il nostro nome spesso è il nostro vestito, ed effettivamente un po' ci fa diventare quello che c'è scritto nel nome. Non per niente uno dei nomi più diffusi è Chiara, mentre al mondo non esiste neanche una bambina che si chiama Scura. Io Chiara lo scuro. Emanuela da Roma, buongiorno. Buongiorno. Emanuela, buongiorno, eccoci buongiorno. Qua niente, volevo raccontare la mia esperienza, il colore del mio primo amore, che poi dall'altro è anche l'amore che sto ancora vivendo. Bene, questo ci piace. Allora, c'è Cesare Cremonini che è attentissimo. Vai. Beh, niente, là nel 2006 ho conosciuto questo ragazzo, e per tutto il tempo, diciamo, del corteggiamento, noi viviamo entrambi a Roma e ci piaceva molto andare a Villa Borghese, Villa Panfili, per tutti i vari parchi di Roma. Io sicuramente il colore di quel periodo, dei primi proprio batticuori che abbiamo vissuto insieme, lo associo al verde dei pini e comunque di tutta l'aria aperta che ci piaceva vivere e passeggiare insieme. E quindi è un colore non il rosso di Cesare. Cesare, convertiti al verde. Ed è un amore che ancora funziona, che ancora batte, prende proprio l'energia dal verde degli alberi. Io penso che Emanuela, che sta ancora vivendo una storia, forse ha trovato la sua giusta alchimia. E noi quindi vi lasciamo. Un abbraccio a Cesare Cremonini con L'uomo che viaggia fra le stelle. Grazie ad Alberto Pellai e a voi che ci avete sentito. Essere e benessere.